Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Propanololo, un farmaco che si usa normalmente per l'ipertensione, potrebbe riuscire a bloccare la progressione del melanoma, uno dei tumori della pelle più aggressivi. Lo ha scoperto uno studio italiano pubblicato da JAMA Oncology, che potrebbe aprire la strada all'utilizzo di questa terapia su diversi tipi di tumore. A Obiettivo Salute il professor Vincenzo De Giorgi della dermatologia dell'azienda sanitaria toscana centro di Firenze. Sì, noi abbiamo fatto questo studio, forti di una letteratura già preesistente, di studi pregressi, in cui abbiamo coinvolto 50 pazienti, di cui con un melanoma a rischio di progressione, di cui un gruppo è stato curato come al solito, ed altri invece abbiamo aggiunto come terapia off-label, cioè sotto la nostra diretta responsabilità, il propanololo, che è questo beta bloccante che normalmente si usa per l'ipertensione. Ebbene, a distanza di 3 anni abbiamo fatto un controllo e abbiamo visto che il gruppo di pazienti ad alto rischio di progressione di melanoma aveva una non progressione del melanoma e quindi aveva un rischio inferiore di progressione di melanoma di circa l'80%, mentre appunto l'altro gruppo, quindi non trattato con il propanololo, aveva quella progressione di malattia che ci aspettiamo in tutti i casi di melanoma. Per saperne di più, ascoltate l'approfondimento del professor De Giorgi sulle pagine di Obiettivo Salute. E dall'Italia andiamo in Inghilterra. Uno studio dei ricercatori dell'Università di Warwick sottolinea che è il cervello a dirci quando smettere di mangiare. A Obiettivo Salute il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Noi sapevamo che il centro che regola il nostro senso di fame, l'ipotalamo, era sensibile a 2 messaggi. Uno proveniente dallo stomaco, la grelina, stomaco vuoto, che vuol dire mangia. L'altro proveniente dal tessuto adiposo, la leptina, che dice al cervello basta, fermati qua. Questo studio dimostra una cosa interessante, e cioè che sono in realtà anche le proteine, o meglio i suoi mattoncini, gli aminoacidi, a dire smetti di mangiare. Quali sono questi aminoacidi? Un aminoacido essenziale è la lisina e poi l'arginina e la alanina. Come fanno questi aminoacidi a bloccare la fame? Noi abbiamo nell'ipotalamo dei piccoli nastri trasportatori chiamati taniciti, i quali prendono l'aminoacido, lo portano all'ipotalamo e questi quindi depositano il messaggio di fine dell'appetito. E vi ricordo che di cibo, alimentazione, parliamo ogni domenica alla Bufala in Tavola in onda dalle 12 alle 13. Vi aspetto, non mancate. E il vostro naso come sta? Secondo gli ultimi dati sono già 80.000 gli italiani che sono stati messi KO da raffreddore e da virus cugini dell'influenza stagionale. Di questo parlerò tra poco in diretta Facebook con il dottor Andrea Franzetti. Vi aspetto. La programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto in diretta video. Ci sentiamo invece domani alle 12 quando scocca l'ora della salute. Buona giornata.